Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, bentornati alla Rassegna Stampa Europa. E come sempre abbiamo dato un'occhiata a quello che i giornali europei dicono delle questioni europee, cercando quei giornali che magari sfuggono un po' al radar normale, anche perché sono in lingue molto lontane, molto diverse da conoscere. In questo senso comunque vi segnalo il sito www.presseurope.eu, che ha sempre una raccolta aggiornata di questi articoli ed è molto interessante. Cominciamo quindi dal Adevărul di Bucarest. Questo quotidiano si occupa dei valori europei e di come sia difficile per in tema di integrazione. Noi che abbiamo un ministero dell'integrazione, forse dovremmo suggerire che anche l'Unione Europea avesse un ministero dell'integrazione, perché non si riesce a colmare questo divario culturale con i paesi dell'est, dell'ex blocco sovietico. Secondo Marian Popescu di questo quotidiano, serve uno sforzo di creatività e comunicazione per evidenziare quello che ci unisce anziché sempre sottolineare quello che ci divide. Vi leggo le prime righe dell'articolo. Il recente rapporto dell'eurodeputato Rui Tavares sulla situazione dei diritti dell'uomo in Ungheria e sul modo in cui è stato accolto dal governo ungherese solleva di fatto la questione della realizzazione del progetto europeo dopo la caduta della cortina di ferro. L'Ungheria e le sue recenti posizioni politiche non corrispondono più alle attese di Bruxelles. Un discorso analogo si potrebbe fare per la Romania o la Bulgaria, per la Slovacchia riguardo alla procedura utilizzata per risolvere la questione Rom, per la Francia per lo stesso problema o per il Regno Unito per il modo in cui affronta il diritto del lavoro dei romeni e dei bulgari, e potremmo continuare con altri paesi. E questo era un quotidiano di Bucarest. Ma a proposito comunque di questioni antiche che non sono risolte o che ciclicamente si ripropongono, dal Guardian, il quotidiano di Londra, un quotidiano inglese molto antico con una lunga storia di liberal, che ha anche il sito che è il sito in assoluto più visitato e letto in lingua inglese al mondo, più anche dei siti americani, quindi questo articolo lo trovate anche online perché è tutto gratuito sul Guardian. Il titolo è: le colonie non resistono alla storia. Naturalmente parliamo di Gibilterra. Ricorderete il 12 di agosto, quando c'è stata la portaerei inglese che si è avvicinata a Gibilterra, e Simon Jenkins ci racconta la sua, anche con una certa dose di ironia storica, ci racconta come secondo lui referendum e navi da guerra non possono farci niente. Tutte le altre vestigia degli imperi che furono, Gibilterra e le Falkland, sono destinate a essere restituite presto o tardi. E vi leggo anche qui la prima parte: non c'è niente di meglio di una cannoniera. La Illustrious di Sua Altezza Reale il 12 agosto è scivolata silenziosamente fuori da Portsmouth, ha superato la HMS Victory e la folla applaudente di patrioti. Nel giro di una settimana era al largo di Gibilterra un tiro di cannone da capo Trafalgar. I petti della nazione si sono gonfiati, sono spuntate alcune lacrime. Lo spirito olimpico si è dileguato per strinare la barba del re di Spagna. Si può dire molto di ciò che fu l'impero britannico, ma di sicuro non c'è più. È morto e sepolto. L'idea che una nave da guerra britannica possa anche vagamente minacciare la Spagna è ridicola. E a questo proposito poi vi leggo il commento invece di El País, sempre a questa vicenda. Il commento era intitolato El País, un quotidiano spagnolo, era intitolato Una contesa assurda. Per chiudere il contenzioso su Gibilterra, il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy e quello britannico David Cameron hanno chiesto alla Commissione europea di fare da mediatrice. In questo modo Bruxelles dovrebbe mettere fine a una vera e propria escalation verbale che rappresenta il perfetto esempio del modo peggiore di fare diplomazia, scrive El País a firma di Denis Maxane. Per lo storico ed ex ambasciatore inglese, le tensioni sulla rocca sono dovute soprattutto ai fattori interni che interessano i due uomini politici. Cameron e Rajoy sono più simili di quello che vogliono riconoscere. Sono due leader deboli che non hanno un reale controllo sulla vita politica nazionale. Entrambi sono stanchi dell'Unione Europea, hanno un enorme problema di disoccupazione giovanile. Entrambi devono fare i conti con le regioni-nazioni, la Scozia nel caso della Gran Bretagna, la Catalogna nel caso della Spagna, che non vogliono un'integrazione completa rispetto con il Regno Unito e la Spagna. Entrambi hanno avuto due grandi imperi, dei sogni duri a morire e dei simboli forti rappresentati dalle loro monarchie. Entrambi hanno grandi problemi di finanziamento dei loro partiti, e via così dicendo. Quindi l'opinione un po' di El País è che la questione di Gibilterra sia in realtà un po' una scusa. Ma a proposito di questioni anche qui sempre aperte, c'è quella naturalmente delle banche. Sappiamo che uno dei paesi dei membri dell'Unione Europea che ha avuto più problemi con il debito è stato Cipro. E allora Ofileleftheros, che è un quotidiano di Cipro, scrive: la Bank of Cyprus avrà i colori della Russia. Il processo della ristrutturazione della Bank of Cyprus, che dovrebbe concludersi prima della visita della Troika europea a metà settembre, potrebbe portare all'ingresso di azionisti russi nel consiglio della prima banca del paese. I russi controllano tra il 12 e il 15% del capitale della banca, il 53% è comunque in mano a stranieri. Il 20 agosto i rappresentanti degli azionisti russi hanno incontrato il governatore della banca nazionale proponendo l'ingresso di due o tre consiglieri nel CDA della banca. E quindi appunto sappiamo che già i russi insomma hanno a cuore Cipro, alcuni hanno, perché non è dimostrato, ma hanno ipotizzato quando c'è stata l'acuirsi della crisi più di un mese fa, che i russi utilizzino invece in realtà Cipro un po' come un paradiso fiscale. Comunque sia, questo è un dato concreto dell'interesse della Russia per il salvataggio dell'economia cipriota, quindi appunto investitori pronti a entrare nel CDA della banca a fronte anche di un investimento. Ma a proposito di poteri dell'Unione Europea, vediamo l'Austria, che è uno dei membri storici, uno dei più antichi dell'Unione Europea. Die Presse, un quotidiano dell'Austria, scrive appunto che l'ÖVP, che è la Österreichische Volkspartei, vuole limitare i poteri dell'Unione. Segretario agli affari europei e internazionali Reinhold Lopatka, che è appunto di questo partito, ha chiesto a Bruxelles di restituire alcuni poteri agli stati nazionali. È interessante questo perché spesso in questa rassegna abbiamo sottolineato come invece la questione sia di avere il coraggio di concedere parte dei poteri nazionali, specie in tema bancario e finanziario, all'Unione Europea. E qui invece però l'Austria, almeno tramite uno dei suoi partiti, chiede in realtà il contrario. In certi tempi, in certi campi, come la politica sociale e l'impiego, la collaborazione europea non ha alcun senso, date le differenze di reddito tra i Paesi membri. E Lopatka si aggiunge così, scrive Die Presse, al coro dei leader europei che nelle ultime settimane avevano giocato apertamente con l'idea di riappropriarsi di alcune competenze dell'Unione Europea, tra cui David Cameron, Angela Merkel e anche il premier olandese Mark Rutte, dove sapete anche lì il fondo. Nel caso di David Cameron e Angela Merkel le motivazioni possono essere complesse e antiche. Nel caso dell'Olanda è che l'economia olandese, un tempo considerata al sicuro da turbolenze, in realtà sta avendo degli indicatori molto negativi e come sempre in questi casi si risvegliano gli umori anti-Unione Europea. Ma veniamo a un altro paese, il paese sicuramente più in difficoltà in assoluto e più difficile da salvare, la Grecia. Ci sono parecchi quotidiani che hanno commentato questa questione. Vi cito il commento della Süddeutsche Zeitung che ha riportato la posizione di Schäuble. In occasione di un comunicato di un comizio elettorale ad Ahrensburg nel nord della Germania, il ministro delle finanze, Wolfgang Schäuble, ha dichiarato che dopo il 2014, l'avrete sentito, poi l'abbiamo riportato anche sui giornali italiani, la Grecia avrà bisogno di un altro programma di aiuti internazionali, il terzo dal 2010. E allora in questo caso vi cito il titolo di un quotidiano greco, il Tanea, un quotidiano di Atene, che titola La Grecia alle urne, ma in Germania. Perché il collegamento è naturalmente col fatto che il 22 settembre sono fissate queste importantissime po elezioni politiche in Germania, in cui la cancelliera Angela Merkel cerca una riconferma e quindi il suo ministro, appunto Wolfgang Schäuble, fa la sua parte di campagna elettorale, secondo il quotidiano greco. Vi segnalo un ultimo articolo dall'International Herald Tribune, che viene un po' definita l'edizione europea del New York Times, viene stampato e distribuito da Parigi, raccoglie molti degli articoli che escono sul New York Times, ma anche alcuni altri articoli che vengono confezionati ad hoc. In questo caso si è concentrato l'International Herald Tribune su quelle facoltà di medicina dove i costi di iscrizione e anche la facilità di entrare sono maggiori all'interno dell'Unione Europea e si tratterebbe delle università ungheresi, ceche e slovacche che tra l'altro offrono corsi in inglese e quindi attirano sempre più studenti occidentali spaventati magari invece dai costi alti che hanno le facoltà di medicina nei loro paesi di origine, anche sicuramente per questioni da partire c'è la retta, ma poi ci sono i libri di testo, c'è il costo costo di mantenersi fuori sede. In realtà abbiamo tempo per un'ultimissima segnalazione, questa volta da Le Monde, sulla questione dell'Egitto, e naturalmente qui la cronaca ci supererà sempre, però quello che possiamo segnalare da Le Monde è che Le Monde invoca sanzioni contro le barbarie. Il massacro degli islamisti da parte dei militari richiede una risposta forte. L'Europa, secondo Le Monde, deve bloccare gli aiuti al paese finché non cesseranno le violenze e sarà ristabilita la democrazia. Questo è un tema che molti commentatori hanno affrontato, ricordo settimana scorsa quando facevo la rassegna stampa al mattino, la debolezza della diplomazia dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e questa mancanza di coraggio nel chiedere per esempio appunto a sanzioni oppure bloccare completamente gli aiuti. Per esempio gli Stati Uniti hanno poi deciso di non bloccarli invocando una nouvelle vague di realpolitik, potremmo dire così. Era la nostra ultima segnalazione per oggi, grazie per aver seguito questa rassegna dell'Europa sull'Europa, un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.